Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Come sei ridotto? Deve mangiare. Riposarti bene, tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi. Troppo tardi, comincerà a girare tra una settimana. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Quella che avete sentito è forse una delle battute più memorabili della storia del cinema. Una semplice successione di parole che racchiude una tale forza da rimanere impressa nell'immaginario come un simbolo di potere. Una battuta pronunciata da Marlon Brando nei panni di Don Vito Corleone, in quello che è stato definito dall'American Film Institute uno dei 10 film più belli della storia del cinema americano, Il Padrino. Tratto dal bestseller che Mario Puzo, scrittore italo-americano, scrisse nel 1969, il film ha una storia complicata e difficile. La Paramount Pictures, la celebre casa di produzione hollywoodiana, ne acquista i diritti e vuole farne un film di genere, creando cioè una serie di film a basso costo che raccontino storie di malavita e di gangster. Ma non tutti sono convinti di questo. Alcuni pensano ci voglia un regista importante, qualcuno che abbia una grande esperienza nel fare un cosiddetto colossal. Vengono quindi contattati Elia Kazan, Sergio Leone, Arthur Penn e Costa Gavras, che non si dimostrano interessati. La scelta cade quindi su Sam Peckinpah, che però viene subito mandato via dai produttori perché vuole trasformarlo in una specie di western. No, per una storia del genere ci vuole una persona che conosca l'ambiente italo-americano, le storie di mafia e degli emigranti, che capisca le emozioni che lo stesso Mario Puzo ha voluto raccontare nel suo libro. Lui è un giovane regista semi sconosciuto. Si chiama Francis Ford Coppola. Quando realizzai Il Padrino ebbi diversi problemi. Ero un giovane regista, non avevo una grande esperienza ed ebbi l'opportunità di girare questo film. Mi vedevo come un regista professionista che adattava un romanzo, ma sapevo che più il libro otteneva successo, più sarebbe diventato un progetto troppo grosso per me. Sarebbero bastati solo 5 mesi e con il libro divenuto un bestseller non mi avrebbero dato il lavoro. Fin dalle prime settimane sapevo che la produzione non era contenta di me. Volevo solo sopravvivere al progetto. Francis Ford Coppola nasce a Detroit da una famiglia di origine lucana. La sua infanzia è segnata dalla poliomielite, che lo costringe in casa per lunghi periodi durante i quali, come anticipo di quella che sarà una carriera sfolgorante, si diverte preparando spettacoli con il teatrino delle marionette e realizzando i primi film amatoriali con la piccola 8 mm di suo padre, Carmine Coppola, noto musicista jazz. Da lì a provarci sul serio, il passo è breve. Conosce un altrettanto sconosciuto e giovane George Lucas nel 1969. Entrambi sono all'inizio della loro carriera e dopo aver viaggiato prima in Europa e poi negli Stati Uniti con una cinepresa in spalla, decidono di fondare insieme a San Francisco l'American Zoetrope, uno studio di produzione per dare a giovani registi l'opportunità di sviluppare idee di cinema d'avanguardia e sperimentale. Ricordo che agli inizi degli anni 70 io e Francis viaggiavamo parecchio e ci piaceva molto questa idea di lavorare per trovare nuove idee e conoscere persone interessanti con idee interessanti. Nelle sale c'era il film Easy Rider, che aveva dimostrato al mondo come si potesse fare cinema con pochi soldi e buone idee. Il primo successo nella carriera cinematografica di Coppola arriva non come regista, ma come sceneggiatore. Nel 1971, infatti, vince addirittura l'Oscar per la sua sceneggiatura di Patton, generale d'acciaio. Coppola, però, non si lascia abbagliare da quel primo traguardo. Lui ha in progetto un film molto ambizioso, si intitola La Conversazione, e sta cercando i soldi per poterlo produrre. È un film che tratta argomenti spinosi, legati alle intercettazioni, alla violazione della privacy. Henry Cole, il protagonista interpretato poi da Gene Hackman, è lo stesso investigatore privato che verrà riproposto dopo 25 anni nel film Nemico Pubblico al fianco di Will Smith. Quando gli viene proposto di girare Il Padrino, Coppola accetta l'incarico solo per avere il denaro sufficiente a finanziare il suo progetto, non pensando che la direzione di quel film su una storia di gangster italo-americani avrebbe condizionato la sua carriera di regista e quella di molti altri attori. Il presidente disse: in quanto presidente della Paramount Pictures, Marlon Brando non apparirà mai in questo film a meno che non faccia il film gratis, dopo aver fatto un provino e dopo aver dichiarato per iscritto di non causare problemi o ritardi. E io dissi: va bene. Marlon Brando viene scelto per la parte del vecchio Don Vito Corleone. È lo stesso Brando che ricorda di essere stato a lungo indeciso e di avere addirittura rifiutato la prima proposta fattagli da Mario Puzo, l'autore del libro, rispondendo di non volere diventare un padrino della mafia. Ma poi la vera sorpresa già al primo Chuck, come ricorda Coppola. Chiamai Brando, che non conoscevo, e gli proposi di fare delle prove di trucco per aggirare il problema del provino. Comprai del formaggio italiano e un sigaro. Stavamo girando e vide il formaggio, si lisciò i capelli con del lucido da scarpe, prese il formaggio e se lo mise in bocca. E quando si girò ci apparve come un bulldog. Mi misi a girare. Lui iniziò a mugugnare e così nacque il personaggio. Poi il cotone in bocca, i capelli neri. Era fantastico da vedere. Brando nel 1972 è già un attore affermato. Non è lui ad avere bisogno di un trampolino di lancio per la sua carriera. Francis Ford Coppola, infatti, ricorda di aver notato in un teatro di Broadway per la parte più importante, quella di Michael Corleone, il figlio del boss, un giovane e promettente attore. Coppola è sicuro della sua scelta. Quel ragazzo sarà Michael Corleone. Bisogna solo convincere la produzione, ma il giovane Francis è deciso e pronto a fare offerte che nessuno potrà rifiutare. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore e mai più grande esisterà. Il prescelto per interpretare Michael Corleone è un aspirante attore figlio di emigranti. I suoi nonni materni, neanche a farlo apposta, sono di Corleone, in Sicilia. Ma lui nasce a Manhattan e l'amore per la sua New York è pari a quello che ha per la terra dei suoi avi, la Sicilia. Il suo nome non lascia dubbi sulla sua storia personale. Alfredo James Pacino, ma per tutti... Al Pacino. Al Pacino. Ho lasciato la scuola a 17 anni e da allora ho fatto un sacco di lavori. Facchino, lustrascarpe, operaio. Ho lavorato anche come maschera in un cinema. E proprio lì, guardando vecchi film, mi è venuta la passione per la recitazione. Abbandonato dal padre quando è ancora in fasce, cresce con la madre e i nonni nel South Bronx e la sua è un'infanzia difficile. Al non si può considerare un bello. Il suo volto però è intenso. Gli occhi profondi ed espressivi, e la sua recitazione riesce ad avere in alcuni momenti un effetto magnetico sullo spettatore. Lui stesso è conscio del suo aspetto normale, come racconta in una intervista al David Letterman Show. Negli anni 60 c'erano questi grandi cinema e io facevo la maschera, vendevo popcorn in una specie di botteghino con tre specchi che mi circondavano. Un giorno mi guardo allo specchio, proprio come mi sto guardando ora, di profilo, e dico: oh mio Dio, sono finito, vorrei essere un attore con quel naso. Poi per fortuna mi licenziarono e giurai a me stesso di non usare mai più tre specchi messi in quel modo. Ad Al piace scherzare durante le interviste, anche se non le ama. Come lui stesso dichiara, non lo fa perché si sente una star, ma semplicemente per la sua timidezza, che potrebbe sembrare incompatibile con il mestiere di attore, ma che in realtà lo aiuta a creare la separazione tra l'uomo e il personaggio che deve interpretare. Dopo numerosi tentativi negli anni 60, riesce finalmente a entrare all'Actor Studio di New York, dove trova come suo maestro Lee Strasberg, che reciterà poi nel Padrino la parte del gangster Ayman Roth. Per il giovane attore si aprono così le porte di Broadway, questa volta non per vendere popcorn, ma per salire sul palco e recitare. E seduto tra il pubblico una sera c'è Francis Ford Coppola. Dal momento che lo vidi recitare sul palco, rimasi talmente colpito dalla sua bravura e dalle emozioni che era in grado di trasmettere, che ogni volta che leggevo la sceneggiatura del Padrino e incontravo il personaggio di Michael Corleone, non facevo altro che vedere il volto di Al Pacino. La produzione però non è convinta. Per il personaggio di Michael Corleone vuole un attore famoso e così offre la parte a Jack Nicholson, a Dustin Hoffman, Robert Redford, Ryan O'Neill. Quando suggerirono Ryan O'Neill e Robert Redford, mi misi a ridere, rispondendo che al massimo sarebbero potuti passare come italiani del nord, non come siciliani. I provini sono lunghi ed estenuanti, come racconta James Caan, che nel film interpreta il ruolo di Sonny, il fratello di Michael. Al Pacino, Robert Duvall e io andammo a San Francisco. Eleanor, la moglie di Francis, ci tagliò i capelli e con una cinepresa a 16 mm improvvisammo. Credo che gli sia costato 4 panini con la carne in scatola. All'inizio non erano contenti del provino di Al. Fecero fare anche a me un provino per la sua parte. Non c'è attore che non fosse lì. Erano seduti su un pavimento di cemento dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Spesero $400,000 sui provini e alla fine scelsero quelli dei 4 panini. Io ero perplesso e non sapevo cosa esattamente stesse accadendo. Ero nuovo del mondo del cinema e Duvall mi diceva prima di ogni ripresa: non preoccuparti, Al, tanto ti verrà da ridere. Ma io non volevo ridere, sapevo che non mi volevano e ad un certo punto dissi a Francis che non c'era problema, che avremmo fatto un altro film insieme. Ero relativamente giovane e pensavo funzionasse così. E invece, a dispetto di ciò che pensa Al Pacino, non funziona così. Perché Francis Ford Coppola vuole proprio lui per quella parte e nessuno può convincerlo del contrario. Fu Marcia Lucas, la moglie di George, a togliermi ogni dubbio. Mi disse: dai la parte ad Al Pacino perché è uno che ti spoglia con lo sguardo. Marcia disse proprio così e caspita, aveva ragione. La tenacia di Coppola riesce a superare le resistenze della produzione e così Al Pacino ottiene la parte di Michael Corleone. Il giovane attore, con alle spalle solo 2 interpretazioni cinematografiche e tanta gavetta nel teatro, si ritrova a recitare spalla a spalla con Marlon Brando, da tutti considerato un mostro sacro del cinema. Durante le riprese venni a sapere che non mi volevano. E beh, insomma, era evidente. Si mettevano a ridere quando apparivo di fronte alla cinepresa. Lo studio vedeva giorno per giorno le riprese e diceva: all'aria così noiosa. Ero fuori, mi avrebbero cacciato. Poi però arrivò l'omicidio di Sollozzo. Dopo quella scena decisero di tenermi, perché era come se avessi ucciso veramente una persona. Qualcosa era cambiato. Io ero cambiato. Il clima che si crea nella produzione diventa sempre più affiatato e complice. L'artefice di questa armonia è sicuramente Francis Ford Coppola, che dialoga e scherza con tutti. Attori, produttori, tecnici, tutti legati da un filo invisibile che lui riesce a tirare, come nel teatro di marionette con cui giocava da piccolo. E tutti si sentono membri di un'unica grande famiglia. Sin dall'inizio della lavorazione del film, anche la mafia, quella vera, e l'FBI si mostrano molto interessati. Si parla di grandi famiglie, di malavita organizzata, ci sono tantissimi riferimenti alla politica e all'attualità americana e sono in molti a temere di apparire nella sceneggiatura con facili allusioni. Uno di questi è Frank Sinatra, che a lungo fa pressione sulla produzione per far sì che il personaggio di Johnny Fontaine, che nel romanzo di Mario Puzo si ispirava ai suoi presunti contatti con Cosa Nostra americana, non fosse ricondotto a lui. Anche Marlon Brando ricorda in una intervista lo strano affollamento presente sul set. Fin dall'inizio la mafia si dimostrò molto interessata al modo con cui avremmo rappresentato quella cinematografica. Dato che molte riprese venivano girate nel territorio controllato da Cosa Nostra, nella Little Italy di New York, qualcuno fece visita a Blue Dorn, boss della Paramount, e lo convinse ad accettare determinate condizioni, tra cui quella di non menzionare mai la parola mafia nel film. Quando eravamo sul set, potevi incontrare Joe Bufalino e altri esponenti delle famiglie newyorkesi, e tutti erano sempre estremamente cordiali e silenziosi. Anche l'FBI è presente sul set. E non è un caso che la famosa scena in cui si vede la polizia prendere nota delle targhe d'auto degli invitati fuori dal cancello della villa di Don Vito Corleone sia stata ispirata da fatti realmente accaduti durante le riprese. Sembra che persino Marlon Brando, terminato il film, venga contattato dall'FBI. o forse no? Terminato il film, la segretaria di Sam Spiegel mi telefonò dicendo che un agente dell'FBI voleva interrogarmi. Mi interrogò per 6 ore, facendomi un sacco di domande e chiedendomi se ero disposto a fare la spia. E io risposi dicendo che avevo dei figli e una vita serena e che quindi non volevo che nessuno venisse minacciato. Quindi, se anche avessi saputo qualcosa, non lo avrei mai detto a nessuno. Avevo capito che era un membro della mafia, che tentava di scoprire se avevo raccontato qualcosa all'FBI, quella vera. Oggi, quando vado a Little Italy, beh, mi sono guadagnato il loro rispetto. Malgrado questi aneddoti, la produzione prosegue senza intoppi. Il legame tra Francis Ford Coppola e Al Pacino diventa sempre più saldo. Pacino diventa punto di riferimento per tutti i suoi colleghi e a nessuno passa più per la testa di licenziarlo. Volevano che mi imponessi e alla fine, beh, c'ero riuscito. Quando Il Padrino esce nelle sale, diventa subito un successo. Solo negli Stati Uniti incassa più di 80 milioni di dollari, lasciando sbalorditi i produttori della Paramount che non si aspettano un risultato del genere. I will now go straight to the awards. For the best screenplay based on material from another medium, the nominees Mario Puzo and Francis Ford Coppola for The Godfather, and the winner is Mario Puzo and Francis Ford Coppola for The Godfather. Il film riceve un totale di 10 candidature all'Oscar, mettendo in competizione ben 3 attori su 5 candidati al ruolo di migliore attore non protagonista: Robert Duvall, James Caan e Al Pacino, quelli dei 4 panini. L'Oscar arriva come miglior film, migliore sceneggiatura e migliore attore protagonista a Marlon Brando, che però invia alla consegna della statuetta Sachin Littlefeather, una squaw Apache che solleva il problema delle ingiustizie subite dalle popolazioni indiane. Non è passato molto tempo da quando un giovane regista di Detroit e un promettente attore newyorkese si sono incontrati sul set di uno dei film più famosi della storia del cinema. Il loro legame professionale è destinato a durare per molti anni. Al Pacino e Francis Ford Coppola, infatti, si ritroveranno ancora per lavorare insieme per continuare a raccontare la storia della famiglia Corleone. Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con 4 infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Destini incrociati. Destini incrociati ha visto nascere un capolavoro del cinema americano, grazie al quale sono diventati famosi un gruppo di giovani attori, tra cui Al Pacino e il giovane regista Francis Ford Coppola. 2 anni dopo l'Oscar con Il Padrino, Coppola può finalmente dedicarsi alla produzione del suo film La Conversazione, vero motivo per cui ha accettato di girare un film sulla mafia. La sceneggiatura del film viene scritta all'inizio degli anni 60, ma quando il film viene realizzato il tema è quanto mai attuale. Gli Stati Uniti sono appena usciti dallo scandalo Watergate e questa storia, legata all'abuso della privacy e all'utilizzo di intercettazioni, sembra esserne fortemente ispirata. Il successo è immediato e Coppola vince a Cannes la Palma d'Oro come miglior film. Anche Al Pacino prosegue la sua carriera dopo quella spinta avuta proprio dalla determinazione del regista del Padrino, che l'ha fortemente voluto come Michael Corleone, interpretando nel 1973 Serpico. Guarda caso sempre la storia di un italo-americano, questa volta dalla parte dei giusti. Per questa interpretazione Al Pacino vince il Golden Globe e riceve la sua 2ª nomination all'Oscar. Interpretare personaggi diversi è ogni volta una grande sfida. Non so se gli altri accada la stessa cosa, ma quando io faccio un film, entro talmente nel personaggio da continuare a pensare con la sua testa anche quando la sera torno a casa. Quando ho interpretato Serpico, per me è stato difficile all'inizio, perché alcuni degli episodi del film io li avevo vissuti veramente quando ero ragazzo e vedevo davvero i poliziotti prendere i soldi illegalmente per strada. Ma il grande successo ottenuto dal Padrino spinge i produttori della Paramount a preparare il sequel. Il Padrino parte seconda, questa volta approfondisce non solo il personaggio di Michael Corleone, ma anche quello del giovane Don Vito, interpretato in modo magistrale da Robert De Niro. De Niro tried out for the part De Niro fece un provino per la parte di Sonny, il fratello di Michael. Era incredibile, spettacolare, ma non lo avrebbero accettato. Così, quando dovemmo trovare qualcuno per Marlon da giovane, pensai che avrebbe potuto interpretare il giovane Brando. Andai alla Paramount e gli proposi l'idea, e mi dissero no. Malgrado le prime resistenze alle scelte di Coppola, ancora una volta dimostratosi lungimirante, la parte di Don Vito Andolini, divenuto poi Corleone con il suo arrivo a New York, viene affidata proprio a Robert De Niro. Francis Ford Coppola non sbaglia. Lui poi ha il sangue italiano, in lui è radicato un fortissimo senso della famiglia. Come abbiamo già visto, durante la lavorazione del primo film, è riuscito a ricreare un'atmosfera capace di mettere a proprio agio attori diversi come Marlon Brando e Robert Duvall. Ma è durante la lavorazione del Padrino parte seconda che nasce un'atmosfera magica, come ricorda Al Pacino. Si comportavano tutti come si sarebbero comportati i loro personaggi. Sapevi che era pazzesco, ma non c'era niente da fare. Non ti rendevi conto di essere lì per un film. Quando un gruppo di attori fa qualcosa insieme, come mangiare, ridere, condividere emozioni, si instaura un certo legame che li unisce. Più tardi, quando fai la scena, le cose funzionano. Questo legame traspare, rendendo più realistica la scena stessa, grazie a questa preparazione. È importante che Coppola abbia mostrato il lato familiare. Per lui la famiglia è il principio e la fine di tutto, nell'amore e nell'amicizia. Indipendentemente dal ruolo e dallo stile di vita che scegli, gangster, politico, insegnante o madre. Coppola ha voluto raccontare questo in modo che fosse comprensibile a tutti. Il successo ottenuto dal primo film viene superato dal sequel, anche se, come ricorda Coppola, inizialmente ci sono errori nel montaggio e le prime proiezioni non convincono il pubblico. Tre settimane prima che uscisse il secondo film, ci fu una disastrosa anteprima a San Francisco. E ricordo che apportammo diversi cambiamenti in quel fine settimana. Lo facemmo vedere a San Diego e andò molto meglio. Lavorai duramente per cercare di far capire ciò che provavano i personaggi. La storia seguiva un duplice binario, cosa che la rendeva difficile da seguire. Il personaggio principale stava diventando una specie di zombie. All'Academy Hall di Los Angeles, la notte degli Oscar del 74, rimane uno dei ricordi più belli della carriera di Francis Ford Coppola. Il film ottiene 11 nomination e vince i due premi più prestigiosi, miglior film e miglior regia. Dalle parole commosse di Coppola traspare la fatica e il lavoro di tutti coloro che hanno collaborato al successo del film. C'è mancato poco che vincessi un paio di anni fa con il primo tempo dello stesso film. Ma non è per questo che ho girato Il Padrino parte seconda. Fu un'idea di Charlie Bluthorn e quando me la comunicò pensai che fosse la strada verso un sicuro fallimento, con il rischio di rovinare tutto ciò che di buono era stato fatto. Andai a casa e ci pensai su e mi resi conto che questa sarebbe stata invece una sfida per affrontare ciò che sembrava impossibile. E sono molto contento di aver rischiato. Al Pacino riceve ancora una volta la nomination come migliore attore protagonista, ma non vince. Ma poco importa, perché ormai la sua carriera è inarrestabile e inizia a interpretare una serie di personaggi che rimarranno nella storia del cinema. Tony Montana in Scarface, Carlito Brigante in Carlito's Way, fino ad arrivare a Satana nel film L'Avvocato del Diavolo. Poi, nel 1993, dopo aver collezionato ben 7 nomination, vince l'Oscar come migliore attore protagonista nel remake del film Profumo di Donna, interpretando il ruolo che già fu di Vittorio Gassman. Per me, quando devo interpretare un personaggio, che sia un gangster, un uomo innamorato o qualsiasi altra cosa, è importante capire a fondo la sua anima, quello che lui prova, il perché lo prova. Il mio grande insegnante all'Actor Studio, Lee Strasberg, mi ha insegnato questo metodo e io l'ho trovato sempre molto utile. Francis Ford Coppola, allo stesso modo inarrestabile, nel 1979 realizza il film Apocalypse Now, considerato da tutti i critici come uno dei più significativi film sul Vietnam. Il film ha una storia travagliata. I difficili rapporti col governo delle Filippine, dove viene realizzato, i tifoni, i problemi di salute del protagonista Martin Sheen, provocano ritardi e problemi finanziari che mettono in forse il completamento del film. ma Francis Ford Coppola non è il tipo da lasciarsi intimidire da queste cose. Lo ha già dimostrato superando gli ostacoli posti dalla produzione de Il Padrino. E così prosegue. E il suo film denuncia sugli orrori della guerra giunge finalmente alla fine. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati raccontiamo la storia della saga della famiglia Corleone attraverso i due principali interpreti di questa avventura, Francis Ford Coppola e Al Pacino. Sono passati 20 anni da quando 3 attori sconosciuti e un giovane regista si sono trovati davanti a 4 panini e hanno dato vita alla più grande saga della storia del cinema. Ci sono ancora delle questioni aperte nel racconto della famiglia Corleone. È il momento di saldare tutti i conti con il passato. Quando feci Il Padrino parte seconda, cercai di chiudere. Ne avevo abbastanza. Poi sentii che volevano farne un altro e pensai, su cosa? Io ho creato il lato emotivo della famiglia. Non è come altri sequel, dove pensi ad una nuova avventura. Iniziò a parlarne 2 anni prima che fosse pronto a farlo. Credo che dovesse pensarci sopra. Alla fine, quando arrivò il momento, aveva qualcosa da raccontare. Avere qualcosa da raccontare, ecco il segreto di Coppola, come ricorda Al Pacino. 18 anni dopo il primo Chuck, un gran bel gruppo di amici si ritrova ancora attorno ai tavoli della Zoetrope a San Francisco per discutere i dettagli del racconto di una storia familiare. Con Il Padrino parte terza fu diverso. Erano passati 18 anni ed erano tutti diventati ricchi e famosi. Farli venire tutti nel medesimo luogo allo stesso tempo fu difficile. Difficile, ma non impossibile. Infatti quello che accade è qualcosa di magico, irripetibile. È come una rimpatriata fra compagni di scuola che non si vedono da tanti anni, ma che immediatamente recuperano quello spirito e quell'affiatamento che non si è mai dimenticato. Quando fai venire la stessa troupe del film precedente, lavori con vecchi colleghi che si conoscono da anni. Questo dà un certo sapore che influenza la storia, perché narra la storia di una famiglia ed è realizzato da una famiglia. Già, la famiglia. Francis Ford Coppola ha lavorato per 20 anni alla saga del Padrino, realizzando 3 film, vincendo un numero incredibile di premi e riconoscimenti. Eppure lui non ha fatto altro che prendere spunto dal libro di Mario Puzo per raccontare uno stile di vita, un modo di essere che è stato comune alla maggior parte delle persone che, come il piccolo Vito Corleone, al loro arrivo a Ellis Island, hanno salutato l'immagine della Statua della Libertà come l'inizio di un sogno da costruire. Ciò che è interessante in questo film è il senso di incredibile déjà vu. Hai un gruppo di persone, ti guardi in faccia e devi fare i conti con un luogo e con gli stessi attori di 20 anni fa. E questo è incredibile. È un'opportunità più unica che rara riuscire ad avere una situazione così. Anche per Al Pacino è tutto incredibile. Il Padrino parte terza conclude la saga della famiglia Corleone. Michael, ormai vecchio e stanco, rappresenta la fine di un'epoca. Se Il Padrino parte seconda si chiude con un Michael Corleone ipocrita, che non si fida più di nessuno e sempre più paranoico, nell'ultimo film cerca invece la redenzione, e il suo è più un tono da confessionale piuttosto che da congiura. In realtà ciò che traspare dalla sceneggiatura sono le confessioni dello stesso Coppola, un uomo di mezza età che ripensa alla sua vita e riflette sui suoi successi e i suoi fallimenti, sulla sua mortalità e sulla sua famiglia. Ancora una volta il regista arriva da protagonista all'edizione degli Oscar con ben 6 candidature, ma questa volta il film non vince nessuna statuetta. A onor del vero, il terzo capitolo della saga è quello meno riuscito. La trama è troppo legata a fatti della politica e dell'economia recenti, come la morte del banchiere Roberto Calvi e di Papa Giovanni Paolo I. Anche nel cast ci sono alcuni punti deboli, come la stessa Sofia Coppola, figlia di Francis, che vince il Razzie Award, il premio riservato ai peggiori attori. Why do I find myself under your sweetest care? destiny seems to whisper it won't stay like this. Al Pacino agli inizi degli anni 90 è all'apice della carriera. Nel 1995 è di nuovo sul set con Robert De Niro per il film The Heat, La sfida, dove interpretano i panni l'uno di un poliziotto e l'altro di un ladro. La pellicola è ricca di azione, fino allo scontro finale tra i due protagonisti. La curiosità di questa produzione sta nel fatto che è la prima volta che questi due grandi attori recitano delle scene in comune nello stesso film. In precedenza, nel Padrino parte seconda, i due attori non si erano mai incontrati sul set, dal momento che De Niro interpretava il giovane padrino agli inizi del secolo. In realtà, anche in The Heat, le scene in cui i due attori si incontrano sono solo due, e pare che siano state entrambe girate in un solo giorno, vista la moltitudine dei loro impegni. Dopo aver terminato la saga del Padrino, Francis Ford Coppola cambia genere e nel 1992 dirige Dracula di Bram Stoker, che vince 3 premi Oscar e ottiene un vasto consenso di pubblico. Nello stesso anno arriva anche il premio alla carriera al Festival di Cannes. Francis Ford Coppola lo accetta, anche se, con ironia, afferma di non sentirsi ancora pronto al ritiro dalle scene. Mentre per Al Pacino, al di là degli Oscar, dei Golden Globe e di altri numerosi premi, nel 2007 arriva quello che lui considera il premio più prestigioso della sua carriera, il Life Achievement Award dell'American Film Institute. Il nome di Al Pacino compare così accanto a quello di Orson Welles, Henry Fonda, Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor e Sean Connery. Ladies and gentlemen, Robin Williams. Buonanotte, buenas noches, bienvenuto, welcome to the 35th annual AFI Life Achievement Award, a tribute to Al Pacino. È una serata memorabile e uno dopo l'altro tutti i più grandi attori del cinema americano rendono onore al giovane attore cresciuto nel South Bronx. Al Pacino è visibilmente commosso e per tutta la sera vede scorrere le immagini più importanti e significative della sua carriera. Alla fine viene chiamato sul palco. È ancora una volta on stage e mentre saluta tutti gli invitati con la voce spezzata dall'emozione, ringrazia di nuovo il regista che ha creduto in lui sin dal primo momento e che gli ha permesso di vivere un incredibile sogno. Se inizio a ringraziare la mia famiglia adesso, so che mi metterò a piangere e quindi non andrò in quella direzione. La persona che invece più di ogni altra voglio ringraziare è Francis Ford Coppola e non riuscirò mai a ringraziarlo abbastanza. Francis non mi ha scelto per il padrino, ha combattuto per me, anche quando io volevo rinunciare, e ha costruito il personaggio su di me. Non sarei qui stasera senza di lui. Se andiamo a guardare l'anagrafe, Al Pacino e Francis Ford Coppola sono quasi coetanei. Il loro sogno è iniziato quando avevano poco più di 30 anni, ma a sentirli oggi sembra quasi di sentire un figlio che ringrazia il proprio padre per tutto quello che di buono gli ha insegnato, proprio come Michael Corleone e suo padre, nella splendida scena del giardino, nel Padrino parte prima, quando il vecchio Don Vito si rammarica con il figlio per tutto ciò che non è riuscito a fare. Io sapevo che a Sonny sarebbe toccato una vita così. E Fredo... Fredo era... Ma non volevo che la facessi tu questa vita. Io ho sempre lavorato e non ho rimorso. Ho avuto cura della mia famiglia e ho sempre rifiutato di fare il pupo. Attaccato ai fili tenuto in mano da quei pezzi a 90. E non ho rimpianti, era la mia vita, ma pensavo che un giorno finalmente sarebbe toccato a te tenere i fili. Il senatore Corleone, il governatore Corleone, oppure non so... Un altro pezzo 90. Il tempo non mi è bastato, non ho avuto il tempo. Ci arriveremo, papà. Ci arriveremo. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories.